2024. Vincitore dello European Podcast Award, il premio ai migliori podcast europei. 2024 di Enrico Pagliarini. Questa è la puntata del 18 e 19 gennaio 2014. Bentornati a 2024, il programma di Radio 24 dedicato alla tecnologia. Siamo in onda in radio, in FM, in streaming sul nostro sito internet o attraverso la nostra app, anche in Digital Radio, la radio digitale terrestre che si sta diffondendo in tutta Italia, anche Radio 24 in Digital Radio. Poi canale 700 di Sky o naturalmente il nostro podcast. E se non siete ancora abbonati al nostro podcast, beh, vi consiglio di farlo. È un modo molto utile per riascoltare le nostre puntate o ascoltarle in altri momenti, oppure magari farsi un archivio in locale, anche se è vero, tutto si sta spostando verso il cloud e quindi si può andare a recuperare una nostra puntata in streaming quando si vuole, ma uno può anche per comodità avere le nostre puntate online sul offline sul proprio dispositivo, sul proprio hard disk, eccetera eccetera. Però è un vero e proprio fiume di notizie quello che riguarda la Internet of Things. Ne abbiamo parlato anche recentemente dal Consumer Electronic Show di Las Vegas. Allora, all'interno di questo fiume di notizie, una società di sicurezza informatica californiana chiamata Footpoint Security se n'è uscita con una notizia molto interessante e potremmo dire evocativa di uno scenario possibile per i prossimi anni. Allora, secondo i ricercatori di questa società, nel periodo delle vacanze di Natale, dal 23 dicembre al 6 gennaio, circa 750.000 email maligne, stiamo parlando di un numero abbastanza esiguo, però adesso vi spiego da dove arrivano e quindi il numero invece è tutt'altro che esiguo, email maligne, quindi portatrici di possibili virus o altre porcherie del genere, sono state spedite da circa 100.000 cosiddetti smart devices, cioè tutti quegli apparecchi che sono connessi alla rete, dai televisori, gli smart TV che sono connessi ad internet, fino addirittura ad un frigorifero. Sì, frigorifero. Allora, questa società Proofpoint avrebbe registrato alcune email anche da un frigorifero connesso alla rete internet. Sapete che negli ultimi mesi soprattutto alcuni produttori hanno annunciato alcuni elettrodomestici che si connettono tra di loro e si connettono anche alla rete internet. In questo modo si può controllare allo stato dell'apparecchio anche alcune funzionalità attraverso uno smartphone, attraverso un computer collegato alla rete internet, e l'apparecchio può comunicare con noi. Che ne so, il frigorifero potrebbe dire: guarda che devi fare il disgelo perché è passato troppo tempo dall'ultima volta, cose del genere. Però, visto che questo è connesso alla rete internet e deve in qualche modo comunicare, se un cybercriminale prende possesso di un apparecchio del genere, beh, può addirittura anche far sì che dall'account di questo frigorifero venga spedito un'email, ed è quello che è successo. Allora, c'è anche un nuovo termine che è stato coniato per questo fenomeno, cioè ThingBot. Dalla Internet of Things, dalla Internet delle cose, e mettendo assieme questo termine con le botnet. Le botnet sono reti di computer che funzionano normalmente in famiglia, in azienda, magari anche il vostro computer, che però sono stati segretamente compromessi da gruppi di cybercriminali che li utilizzano per fare attacchi online. Magari voi non ve ne siete accorti perché non avete un antivirus aggiornato, o non avete proprio un antivirus, oppure avete un antivirus che questi criminali sono così abili e sono riusciti a bypassare, e di fatto questo computer fa parte di una grande rete di computer che sono stati compromessi. Questi si chiamano botnet. Se ci si impadronisce di oggetti connessi alla rete che non siano computer, si possono usare questi oggetti per lanciare attacchi. Allora è stato definito e coniato questo nuovo termine, ThingBot. Il problema è che molte di queste cose connesse della rete, sulla rete internet, la internet delle cose, non è adeguatamente protetto, comunque non lo è come un computer. E di fatto gli esperti di sicurezza si cominciano a domandare che cosa succederà mano a mano che tanti di questi apparecchi cominciano ad essere connessi alla rete internet. Il problema della sicurezza riguarda anche la Internet of Things. Adesso alcune notizie in breve della settimana. Digital News. Iniziamo da una notizia che riguarda Dropbox. Dopo aver sperimentato un disservizio lo scorso weekend, che ha coinvolto quasi tutti gli utenti in tutto il mondo, ce ne sono circa 200 milioni, sicuramente una notizia piuttosto grave. Questa settimana c'è invece una notizia positiva per Dropbox. L'azienda di storage online incassa un nuovo investimento da 250 milioni di dollari, guidato dal più grande fondo di investimenti del mondo, BlackRock. In base a questo investimento, la valutazione dell'azienda sale a 10 miliardi di dollari. Nella versione aggiornata di Photoshop Creative Cloud, la suite di creatività online di Adobe, c'è una novità che riguarda la stampa 3D. Il software di fotoritocco permette di utilizzare sia una stampante 3D locale, anche se non ce ne sono tantissime in giro, ma anche il servizio online Shapeways, che stampa il pezzo e te lo spedisce a casa. Quindi uno ha magari un pezzo tridimensionale, lo ritocca, lo progetta, magari lo migliora con questa novità creata da Adobe e poi lo spedisce il progetto, viene fatta la stampa e viene fatta la spedizione a casa. Digital News. A proposito di stampa 3D, anche Vicenza Oro, tra le più importanti fiere al mondo del settore, ha mostrato dei gioielli costruiti con stampanti 3D. Anche in questo settore c'è un interessante uso di additive manufacturing. E visto che l'argomento è interessante, ne parleremo sicuramente nelle prossime settimane. Digital News. Parliamo di Intel. Mentre i conti continuano a mostrare segnali positivi, con un utile 2013 in crescita del 6% a 9,6 miliardi di dollari su un fatturato di 52,7, arriva anche la notizia di un taglio del personale del 5%. Sugli attuali 107.000 dipendenti, 5.400 persone perderanno il posto di lavoro. L'amministratore delegato Brian Krzanich sta spingendo affinché Intel si focalizzi sulla produzione di chip per dispositivi indossabili e per smartphone, visto che il mercato dei PC continua a soffrire. Digital News. Facebook ha annunciato di aver acquistato due piattaforme di condivisione di notizie per 15 milioni di dollari. Si tratta di Branch e Potluck. La prima permette di avviare discussioni a cui possono partecipare solo utenti invitati, mentre Potluck permette di condividere link. Digital News. Da questo venerdì 17 gennaio Apple vende iPhone in Cina anche sulla rete di China Mobile, il più grande operatore mobile del mondo con più di 760 milioni di clienti. La vera notizia però è che il numero uno di Apple, Tim Cook, è andato in Cina per l'occasione. Non capita spesso che i dirigenti di Apple si spostino per questi eventi, ed è addirittura andato in un negozio anche e ha firmato alcune scatole dell'iPhone. Apple ha ricevuto 1,2 milioni di preordini in Cina. Digital News. Un tribunale di Washington ha accolto un ricorso di Verizon contro Netflix, giudicando illegittime le regole che la Federal Communication Commission aveva stabilito nel 2010 riguardo alla cosiddetta neutralità della rete. L'agenzia che regola le comunicazioni aveva infatti imposto agli operatori il rispetto di quel principio di neutralità che guida da sempre Internet. Ma Verizon dice: no, i servizi come Netflix o YouTube, che negli Stati Uniti, pensate, fanno più della metà del traffico della rete Internet, sono troppo pesanti e dovrebbero essere trattati diversamente, cioè dovrebbero pagare una quota aggiuntiva per avere una garanzia di servizio. Vedremo che cosa succederà dopo questa notizia, che fa sicuramente molto discutere. In Europa le cose stanno in maniera molto diversa, anche se questo principio viene dibattuto in tutto il mondo e anche in Europa. Naturalmente gli operatori vorrebbero far pagare, comunque trattare diversamente, un certo tipo di traffico, tipicamente il traffico video, che pesa molto e viene molto consumato dagli utenti della rete Internet. Vedremo. Sì, vedremo quello che succederà. Sicuramente il tema della neutralità della rete è un tema di cui abbiamo parlato, non so, 6-7 anni fa per la prima volta, forse anche di più. Torneremo sicuramente a parlarne, ma questa notizia va così commentata sicuramente, ma considerata anche per il valore che ha. È una sentenza, poi vedremo se la Federal Commission, la Federal Communication Commission farà ricorso, prenderà altre decisioni, insomma, quindi non si è chiuso un capitolo definitivamente. Allora, vi do un aggiornamento sulla vicenda del compenso per coppia privata, ce ne siamo occupati da ormai da novembre, ne parliamo, siamo stati sicuramente i primi in Italia ad aprire questa, chiamiamola voragine, poi fortunatamente molti altri colleghi se ne sono occupati anche in modo approfondito e molto preciso. Allora, ricapitoliamo, il Ministero dei Beni Culturali dovrebbe aggiornare la quota che viene versata alla SIAE quando si acquista un apparecchio con hard disk, smartphone, tablet, PC, un hard disk vero e proprio, una scheda di memoria. Allora, perché? Perché si presume, già tutto questa presunzione è tutta da dimostrare, però così dice la legge, che uno acquistando un prodotto del genere possa poi farsi una copia, si faccia una copia di un contenuto acquistato legalmente. Io compro un CD audio, perché oramai sono solo i CD audio che permettono di fare una copia, e me la copio sul mio smartphone per riascoltarla. Allora, per ripagare del presunto danno gli autori della canzone che io ho già acquistato legalmente, c'è questa previsione, appunto, che viene chiamata compenso per copia privata. Allora, i detentori dei diritti hanno fatto le loro richieste, Confindustria Digitale ha protestato dicendo che si tratta di aumenti troppo elevati, quindi l'aggiornamento di queste tariffe sarebbe troppo elevato, un danno all'industria, quindi al mercato, e noi diciamo ai consumatori che poi devono pagare questa cifra. E abbiamo ribadito più volte, anche autorevoli esperti hanno detto che il meccanismo della copia privata è oramai anacronistico e andrebbe abolito, visto che oggi il nuovo modo di usufruire dei contenuti è online, in streaming. Parliamo spesso di podcast, quello è uno dei principi. Tuttavia, la notizia positiva è che al momento il ministro dei beni culturali Brai ha deciso di non prendere alcuna decisione prima di avere fatto realizzare una indagine sull'entità del fenomeno copia privata in Italia. Quindi si capirà che il fenomeno è marginale e in decrescita, e quindi molto probabilmente l'adeguamento tariffario, se verrà fatto, speriamo naturalmente di no, dovrebbe essere di entità piuttosto lieve, anzi addirittura io direi dovrebbe essere più basso, visto che questo fenomeno è in decrescita, perché ci si sta spostando su altre modalità per usufruire dei contenuti online, bisognerebbe abbassarlo addirittura. Vedremo e seguiremo questa vicenda da vicino, come abbiamo fatto nelle ultime settimane. Adesso, come ogni settimana, diamo un'occhiata ai contenuti che troveremo domani su Nova, il Sole 24 Ore. Luca De Biase, che guida il settimanale di innovazione del Sole 24 Ore, ci racconta che cosa troveremo in copertina. Sono due storie collegate in prima e in seconda, anche se sono l'opposto l'una dell'altra. La prima pagina è dedicata alla teoria scientifica che sta andando per la maggiore, secondo Science, che vede l'immunoterapia dei tumori come il filone di ricerca più promettente, e tra l'altro Agnese Codignola ci racconta che la ricerca italiana è particolarmente avanzata in questo settore. Nella seconda pagina invece, con Edge, andiamo a cercare le teorie scientifiche che sono pronte per andare in pensione. Edge è una comunità di scienziati che ragiona ogni anno intorno alla questione più importante dell'anno, e quest'anno hanno deciso di mandare in pensione un po' di teorie scientifiche che ancora crediamo vere, ma che ormai è provato che non hanno senso. Tanto per farti un esempio, l'idea dell'homo economicus, per cui l'uomo è un calcolatore del proprio vantaggio e non ha altri modi per scegliere tra mezzi e fini in economia se non quello della razionalità. In fondo, da questo punto di vista, sappiamo per esperienza che non è vero. Bene, grazie a Luca De Biase. Quindi troveremo questi contenuti domani in edicola su Nova, il Sole 24 Ore. Adesso per noi c'è una breve pausa e riprendiamo tra poco. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, io sono Enrico Pagliarini, potete raggiungermi scrivendo a 2024@radio24.it, utilizzando la nostra pagina Facebook oppure Twitter, ma come sempre ripeto, anche se a volte, soprattutto negli ultimi mesi, devo dire che questo consiglio viene sempre più spesso disatteso, io consiglio sempre, quando avete una domanda che richiede un minimo di righe in più, di scrivere una bella email e io cerco nel limite del possibile di rispondere. Non rispondo sempre a tutti, ma direi che il 98-99% degli ascoltatori che scrive riceve una risposta. A volte non ho le risposte, però diciamo che scrivo qualche cosa come risposta alla email. Dunque, questa settimana avete sicuramente sentito che Barack Obama ha annunciato una revisione dei programmi della National Security Agency. Ci sarà l'iter, il dibattito parlamentare anche negli Stati Uniti e vedremo quale sarà il risultato finale, che dovrebbe arrivare attorno a marzo. Poi naturalmente finché non ci sarà un altro Edward Snowden non sapremo che cosa in realtà fa o farà la National Security Agency. Dubito che la revisione sarà molto molto forte, ci saranno sicuramente una serie di operazioni che nessuno conoscerà mai, come è giusto del resto che sia per un servizio che si chiama servizio segreto. Abbiamo parlato la scorsa settimana e da un po' di puntate citiamo il nome Sensori, perché stiamo assistendo, e lo abbiamo visto molto bene, al Consumer Electronics Show di Las Vegas, alla sensorizzazione, quindi ai sensori che diventano sempre più piccoli, sempre più potenti, sempre più precisi e sempre meno costosi, e quindi entrano in tanti nuovi apparecchi che noi indossiamo, cose che stanno nelle nostre case, nelle aziende. Il mondo si sta riempendo di sensori. Giustamente molti si fanno delle domande: ma che cosa sono questi sensori? Però ci sono cose molto semplici che possono essere considerate sensori. Prendete una videocamera e una fotocamera. Nei nostri già telefonini, prima dell'avvento degli smartphone, esisteva la fotocamera per fare fotografie. Ebbene, quella è un sensore. Poi ci sono sensori tecnologicamente molto più complessi, ma soprattutto molto più piccoli, che si possono infilare in tantissimi posti. Molti di questi sensori vanno sotto la categoria dei MEMS, Micro Electrical Mechanical Systems. Sono diventati famosi con l'avvento della Wii. Ricordate il comando della Wii, quella cosa che si muove nello spazio e si comanda, che ne so, una racchetta e si può giocare a tennis con il videogioco, una palla da bowling, muovendo semplicemente questo comando, che ha all'interno essenzialmente degli accelerometri che servono appunto per suggerire alla macchina, alla console, qual è il movimento giusto da fare. Quindi nessun filo, tutto wireless e tutto legato ai movimenti. Si è parlato molto dei MEMS in quell'occasione, era stato ST Microelectronics a fornire i MEMS a quella soluzione di Nintendo. Però questi sensori si stanno diffondendo in modo veramente incredibile. Allora, abbiamo fatto un'interessante chiacchierata con Marcellino Gemelli, che è il responsabile dello sviluppo del business a Bosch Sensor Tech, la divisione di Bosch che sta in Silicon Valley e si occupa proprio di sensori. Allora, che cosa sono questi sensori? A che cosa servono? Quanto costano? Quanto piccoli sono? Marcellino Gemelli. Sono dei sensori realizzati in silicio, secondo lo stesso procedimento produttivo dei circuiti integrati, quindi beneficiano delle stesse strutture di costo e delle stesse capacità di ridurre la dimensione. La prima ondata dei MEMS è stata prevalente nell'automobile negli anni 90 per airbag, controllo di stabilità, e via via con l'utilizzo di MEMS nel mondo dei cellulari sono stati introdotti i primi cellulari con l'accelerometro per la rotazione dello schermo. man mano i volumi sono aumentati, le dimensioni sono diminuite, i costi sono diminuiti e si è cambiato il modo di interagire con questi dispositivi. Nuove applicazioni poi dopo hanno richiesto nuovi tipi di sensori, giroscopio per registrare le rotazioni, magnetometro per individuare la posizione del nord magnetico, sensore di pressione per misurare l'altitudine, quindi sono in grado di capire come mi muovo nello spazio. Queste ci saranno nuove applicazioni a livello di smartphone per capire come inerzialmente mi muovo all'interno di ambienti chiusi dove il segnale GPS non arriva. E questo è uno degli esempi che si possono fare. Altri tipi di sensori che fanno parte di questa categoria? Abbiamo annunciato qui al CES quest'anno un sensore integrato di temperatura, umidità e pressione atmosferica, quindi in un unico dispositivo. Questo verrà messo abbiamo già dell'interesse per metterlo nei sistemi di wearable devices, quindi dispositivi che vengono indossati, portati attaccato al corpo, al braccio, sul piede, sulla cintura. Un po' ovunque, perché effettivamente ovunque. Al Consumer Electronics Show abbiamo visto cose che si possono indossare ovunque, delle berrette con un sensore, dei braccialetti col sensore, dei collari col sensore, insomma un po' ovunque. Questi sensori sono piccolissimi, allora, piccoli quanto e anche poco costosi oramai. Sì, questo nuovo sensore è solo 2,5 mm per 2,5 mm. E anche tutti gli altri sono così piccoli. E gli altri alcuni sono anche molto più piccoli. Quindi accelerometro ormai siamo già a 1,2 per 1,5. Quindi la dimensione è tale per poterlo distribuire non solo nei telefoni cellulari, come veniamo adesso, ma anche negli oggetti di tutti i giorni, dalla tazzina del caffè o la mattonella per costruire le case. Qualsiasi cosa che uno può pensare a qualcosa, può pensare che ci si può inserire questa qua. Quanto costano? Non possiamo dire i prezzi. Un ordine di grandezza possiamo darlo. L'ordine di grandezza sì, si tratta di poche decine di centesimi e comunque è difficile trovare sensori ormai che vanno molto sopra il dollaro. Ci sono delle, come dicevamo prima, in questo caso, visto che stiamo parlando di cose oramai molto precise e a basso costo, disponibili in grande quantità, possiamo accendere la fantasia e pensare a qualcosa, però possiamo fare degli esempi di nuove cose che si possono fare già oggi o che comunque vedremo sul mercato nei prossimi mesi o addirittura anni? Sicuramente la navigazione inerziale all'interno di ambienti chiusi dove il segnale GPS non arriva, segnale satellitare usato tradizionalmente all'esterno degli edifici e in campi aperti, questa è una delle prime applicazioni già disponibili con i nuovi sistemi operativi e che prenderanno sempre più piede nel momento in cui le persone trovano difficoltà a navigare. Come vediamo qui a Las Vegas, per esempio, a navigare in grandissimi ambienti chiusi, ma come possono essere anche all'interno di aeroporti, grandi uffici, centri commerciali. Andando oltre c'è questa Internet delle cose, per cui tutti questi sensori collegati a Internet come una rete, come un sistema distribuito intelligente, riesce ad offrire più della somma di ogni singolo sensore. I vostri clienti chi sono? Produttori di smartphone prevalentemente o anche altri? Oggi sì, come Bosch SensorTech gran parte del nostro volume arrivano dai costruttori di smartphone, tablet e via. Però sempre più abbiamo richieste dal mondo dei dispositivi da indossare. Qui a CES abbiamo visto parecchi braccialetti per il fitness, dei sensori da collegare su indumenti, eccetera. E stiamo parlando ovviamente con la maggior parte di queste nuove startup, di queste nuove creazioni di dispositivi nuovi, di nuovi modi che la gente usa per interagire con con l'ambiente. In altre parole, questa Internet of Things non è altro che il collegamento tra il virtuale con il reale. Quindi ci sono delle dimensioni reali che ha senso registrare e trasmettere in un mondo virtuale, da dove si possono poi processare sia per motivi commerciali sia di contempo per motivi utili. Un dato interessante di questa evoluzione, di questo mercato in espansione dei sensori, soprattutto dei sensori MEMS che vanno sotto questa categoria di cui abbiamo parlato, è che i due principali player del mercato, quindi Bosch, e Marcellino Gemelli lavora in Bosch, e STM sono europei, quindi un'azienda tedesca e un'azienda italo-francese. È una buona notizia in questo mondo che è dominato oramai da gli Stati Uniti per certi versi e la Cina o comunque l'Asia per altri versi. Questo è 2024, ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità e poi riprendiamo, parliamo di una volta si chiamava domotica, oggi potremmo chiamarla home automation, comunque automazione della casa. C'è una notizia dalla quale partiremo tra poco, notizia di questa settimana, per parlare di un altro degli scenari che vedremo che piega prenderà nei prossimi anni. 2024. Siamo di nuovo insieme a 2024, io sono Enrico Pagliarini, oggi in regia c'è Roberto Scaltritti, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Questa settimana Google ha annunciato di avere pagato 3,2 miliardi di dollari per acquistare un'azienda che probabilmente in Europa è pressoché sconosciuta. Si chiama Nest, diciamo chi segue un po' il mondo delle tecnologie la conosce, ma non è certamente un'azienda conosciuta al grande pubblico. È una società che produce un rivelatore di fumo e un termostato che si connettono al web. Il termostato è famoso soprattutto per questo termostato, anche con un bel design, fa cose tipo collegarsi a servizi meteo, attivare i propri sensori in casa per capire se i proprietari sono in casa e di conseguenza fare un po' di conti e regolare la temperatura, quindi anche in base alle previsioni del tempo, in base alla presenza, in base all'abitudine, perché la macchina impara nel corso dei giorni e delle settimane. Google è interessata ad entrare nel settore della cosiddetta home automation per raccogliere dati sulle nostre abitudini e darci così migliori servizi. Vedremo poi, tutto da dimostrare che ci riesca a dare migliori servizi in questo campo, che la gente sia così interessata ad avere servizi migliori. Tutto ciò viene collegato con lo smartphone, naturalmente, quindi io posso consultare, dialogare con le cose di casa, perché qua stiamo parlando di un termostato, ma poi si possono costruire mille altre cose. Già oggi ci sono mille altre cose che si connettono alla rete internet che stanno in casa. Allora, in questo caso, dicevo, si tratta solo di un termostato, ma soprattutto Google non è che ha comprato il termostato, ha comprato un team di sviluppo, un'idea, un progetto, una filosofia che sta dietro questa azienda. Si potranno fare, giusto per fare un esempio, perché uno potrebbe dire ma che cosa potrebbe servire, cosa potrebbe fare? Allora, se noi colleghiamo tutto ciò al nostro smartphone e a tutte le cose che già noi facciamo con lo smartphone e che Google sa, perché noi utilizziamo i servizi di Google, potrebbe ad esempio sapere i nostri appuntamenti, sapere che domani mattina usciamo di casa presto perché dobbiamo andare a fare una visita medica oppure dobbiamo prendere un treno, dobbiamo prendere un aereo e che ne so, il riscaldamento si spegne prima del solito, oppure viceversa, sa che non so, abbiamo preso un giorno di ferie e che dobbiamo fare dei lavori in casa, eccetera eccetera, insomma tante cose di questo tipo, ma potete usare la vostra fantasia. Poi tutti sono concordi nel ritenere che Google deve dimostrare di poter offrire servizi veramente utili e trovare soprattutto un giusto equilibrio con tutto il tema della privacy, perché oggi molti consumatori cedono tranquillamente i propri dati sullo smartphone perché ne ricevono un beneficio evidente, sono contenti dei servizi che ci sono sugli smartphone e quindi se ne fregano di fatto di dare dati personali. Poi sulle conseguenze pochi si interrogano, però vabbè, pochi si interrogano su tutto, quindi a maggior ragione su questo. Vedremo poi cosa succederà anche nel settore della home automation. Però visto che Io e Gianfranco Giardini abbiamo visto molto sulla home automation anche al Consumer Electronics Show. Beh, abbiamo fatto una chiacchierata con Gianfranco, tornati a Milano dopo il Consumer Electronics Show di Las Vegas. Gianfranco, bentornato 2024. Grazie mille e bentornati a tutti gli ascoltatori. Allora, stiamo parlando di home automation e, dicevo, a Las Vegas c'era addirittura quasi, non un intero padiglione, ma quasi un intero padiglione dedicato a questo tema. Sì, è uno dei grandi temi, bisogna dire, anche da molti anni. È un tema che continua a cambiare faccia, è una grande promessa della tecnologia, quella dell'home automation, sui quali tante aziende investono moltissimo, e che ancora però non ha manifestato un vero mercato di massa. Qui siamo stati al Consumer Electronics Show, quindi non è diventato ancora un prodotto consumer. Per il momento l'home automation è confinata agli impianti di altissima gamma e direi anche solo nel momento della costruzione, della progettazione dell'impianto. È abbastanza difficile che un impianto fatto magari in una maniera tradizionale venga migrato verso una situazione digitale più di home automation strada facendo. E quindi ancora, questa collocazione dell'home automation nel mercato consumer, quindi quello per tutti noi comuni mortali, quello almeno con il mio stipendio, non so con il tuo Enrico, ma sicuramente deve ancora prendere una configurazione tutta da capire, ma le notizie e tutto il vigore con il quale le aziende si sono presentate al Consumer Electronics Show fa pensare che forse qualcosa è alle porte anche in relazione, in collegamento con questa benedetta internet delle cose di cui tutti parlano e magari in pochi sanno in realtà di cosa si tratta. In effetti noi da forse 20 anni parliamo di domotica. Oggi non solo cambiamo i termini, perché questo è un termine che, oltre che abusato, insomma, fa pensare a cose un po' troppo complicate, stanno cambiando delle cose. Che cosa sta cambiando? Cioè, perché i produttori continuano ad insistere e, direi, sul mercato si affacciano nuovi produttori di sistemi di home automation, produttori che tipicamente si occupavano di, ad esempio, networking, quindi di soluzioni per collegare reti internet, eccetera, eccetera. Beh, ti faccio un esempio. Molti anni fa, più di 10 anni fa, forse anche 15 anni fa, proprio al Consumer Electronics Show avevo visto delle prime applicazioni di home automation che venivano, avevano una forza incredibile di comunicazione, ma in realtà erano prodotti che non servivano assolutamente a nulla. L'esempio è il forno, per cui, diciamo, proprio questo esempio molto americano, si poteva accendere il forno da remoto con una telefonata. Con il cappone dentro, quindi loro dicevano: prima di uscire di casa lascio il cappone crudo nel frigo, nel forno, che sì, già non so se, e quando stai per uscire dal lavoro oppure quando è l'ora giusta dai un messaggio col telefono. Allora è un telefono tradizionale analogico e il forno parte. Allora io ricordo che le poche TV o mezzi di stampa generalisti che venivano a Las Vegas allora praticamente avevano dato solo quella notizia, come se di tutto il Consumer Electronics Show quella fosse la notizia. In realtà l'abbiamo visto dopo, sono passati 15 anni, è una non notizia, non esiste nessuno che abbia un forno comandabile allora dal telefono, oggi dallo smartphone. Quindi molto clamore di comunicazione, poca applicabilità pratica. Quello che sta succedendo invece adesso siamo già passati nella fase, perché esistono i sistemi di home automation, nella fase dei sistemi un po' monolitici, monomarca, diciamo così, dove che riguardano soprattutto l'impianto elettrico e l'automazione, inteso come tende, tapparelle, motorizzazioni di questo tipo, un po' di automazione anche sulla parte clima, però tutto su una piattaforma che normalmente va essendo un produttore solo e su un bus che o è proprietario o comunque è standard, ma non è come dire, non è internet. Il bus è il sistema con cui comunicano questi aggeggi? Sì, cioè è un sistema di comunicazione dati a filo, no? E questo è quello che accade oggi nell'home automation. Verso che cosa stiamo andando? Beh, mettiamo insieme un po' di pezzi di cose viste a Las Vegas. Per esempio, Intel ha dimostrato la miniaturizzazione del computer, che di fatto diventa grande come un SD card, cioè un computer intero, non il processore, con tutte le sue interfacce, eccetera, eccetera. Questo significa che potenzialmente ogni oggetto della nostra vita può contenere un'intelligenza, e un'intelligenza è pari a quella di un computer, non magari potentissimo, ma è in grado di quindi interloquire naturalmente sulla rete. Se noi pensiamo di inserire in tutti gli oggetti, qui si parla appunto di internet delle cose, in tutti gli oggetti che ci circondano questa intelligenza, ecco che abbiamo, sulla base delle reti che già conosciamo, quindi Ethernet in casa, Wi-Fi e quindi una comunicazione nativa anche con internet, abbiamo la possibilità di avere dell'intelligenza. Cosa poi debba fare questa intelligenza, che sicuramente si controllerà via smartphone, via tablet, quindi i device che già conosciamo, che sono già connessi, cosa debba fare? Beh, qui ci sono tantissime interpretazioni, perché alcune automazioni ancora oggi sembrano molto estreme. Poi ci sono altre soluzioni che, sempre utilizzando i device e altre forme di comunicazione tra NFC e Bluetooth, per esempio, sostituiscono cose che ci accompagnano da molti anni ma che sono oggettivamente scomode, per esempio le chiavi. Quindi avere la possibilità di dematerializzare degli aspetti della vita di tutti i giorni, per esempio il mazzo di chiavi, che è sempre molto ingombrante, e trasformarlo semplicemente in un segnale che arriva dallo smartphone, con tutti i, chiaramente, le attenzioni alla sicurezza, perché qui la chiave è proprio di sicurezza si sta parlando, però se poi vogliamo essere seri e concreti, senza fare allarmismi inutili, una chiave digitale ben costruita è probabilmente molto più sicura di una chiave d'acciaio, perché posso perdere, che mi possono clonare, che devo dare magari a qualcuno che deve entrare in casa semplicemente per farmi una manutenzione e non so se l'hanno copiata. Ecco, per esempio con le serrature intelligenti che si sono viste a Las Vegas, anche qui controllate per esempio via Bluetooth, posso dare delle chiavi, cedere delle chiavi digitali in questo caso, che hanno una durata limitata o nel tempo, quindi però in maniera ricorrente, quindi so che viene la donna di servizio tutti i lunedì e tutti i mercoledì dalle 9 alle 11, ecco, io dalle 9 alle 11 permetto di aprire e chiudere la serratura, dopo no, oppure addirittura un colpo singolo, quindi so che deve venire una persona, un manutentore o semplicemente degli amici, devono aprire un cancello quando arrivano, do loro una chiave che dura soltanto quella volta, è una chiave digitale, e non è, e anche se venisse clonata, copiata, ecco che non esisterà più dopo la scadenza, e quindi è comunque una cosa sicura. Andiamo verso un mondo dove tutto ciò potrà essere controllato, è controllato dai device, però quello che ancora non si è visto è un mondo di integrazione di tutti questi oggetti. Questi oggetti ancora sono oggetti singoli, ognuno ha la propria app, non esiste uno standard multimarca per questo tipo di comunicazione ancora. Per esempio penso agli elettrodomestici, abbiamo visto degli elettrodomestici molto intelligenti in grado di comunicare con l'utente, anche in questo caso con la propria app, cioè Samsung comunica, gli elettrodomestici Samsung comunicano con l'utente grazie a un'app Samsung, quelli LG grazie a un'app LG. È chiaro che se io ho un mix di marche, come è naturale e normale che sia, dovrei avere un mix di app e non potrei mai avere una visione d'insieme. Sì, spero. Spieghiamo questo punto perché mi sembra molto interessante, però lo facciamo tra poco. Adesso abbiamo una breve pausa, questo è 2024, riprendiamo tra poco. 2024, disponibile anche in podcast su radio24.it. 2024. Stiamo parlando della casa del futuro, potremmo dire così, anche se è da 20 anni che parliamo della casa del futuro. Sicuramente ne stiamo vedendo negli ultimi mesi, o comunque abbiamo visto al Consumer Electronics Show di Las Vegas molte soluzioni, molte idee per l'automazione della casa, quindi il tema della home automation è un tema che sta tornando molto forte, anche grazie alla sensoristica, anche grazie alla possibilità di connettere tutto alla rete internet e quindi di equipaggiare con dell'intelligenza strumenti che fino ad oggi non sono sicuramente intelligenti, che quindi diventano smart. Allora, a questo punto però avete sentito, diceva Gianfranco Giardina, che però abbiamo il linguaggio di comunicazione oramai si è standardizzato ed è diventato il protocollo IP, cioè internet, quindi tutti questi aggeggi vanno su internet, del resto si chiama internet delle cose. Però c'è un'ulteriore complicazione, perché poi per pilotare queste cose abbiamo bisogno di ognuno di un'app proprietaria dedicata, quindi per il frigorifero di quella marca della propria app, frigorifero dell'altra marca, l'altra app, per l'altro, che ne so, per il termostato, la propria app, insomma, e quindi abbiamo una proliferazione di applicazioni. Bisogna risolvere questo problema. Allora, Gianfranco, che cosa potrebbe succedere? Che cosa auspichiamo che possa succedere? Allora, per esempio, la strategia dei grandi colossi, in questo caso per esempio degli elettrodomestici, è abbastanza chiara. Cercare di creare un ecosistema tutto con il proprio marchio, cioè l'utente dovrebbe comprare in teoria lavatrice, l'asciugatrice, la lavastoviglie, il frigorifero e chi più ne ha più ne metta, e magari anche il TV di un tal marchio, perché così riesce a controllare anche il condizionatore, riesce a controllare tutte queste cose con un'app e tenerle sotto controllo tutte insieme. E questa è una strategia in realtà per fare, diciamo, vendere i propri prodotti, per far stare sullo stesso marchio, e non è un'esigenza certo dell'utente questo. L'utente vuole il prodotto che caso per caso fa più, è più adatto alle sue esigenze. Ecco, quello che ancora non si intravede è un consorzio veramente forte e rappresentativo sul mondo, per esempio, degli elettrodomestici, sul mondo anche, per certi versi, anche dell'home automation più tradizionale, elettrica, no? Che a un certo punto faccia sì che uno possa miscelare apparecchi di marche diverse e avere il controllo sullo stesso pannello in maniera facile, come dicono gli americani, seamless, quindi senza nessun tipo di preoccupazione o di installazione. Quello che succede, che è successo, cosa rara, per esempio, un po' per il transito di file audio, video e fotografici sulla rete locale domestica col DLNA, cioè il DLNA, o meglio per dirlo all'italiano, che è quello standard di comunicazione di tutti i formati, che ormai è diffuso su tanti apparecchi, su tutti i PC, su tutti i TV col collegamento di rete, non appartiene a nessuno, è supportato da tutti i marchi, quindi io posso avere per esempio un PC Sony che dialoga col TV Samsung in maniera perfetta. Questo ancora non sta accadendo sull'home automation ed è la prossima frontiera che ci aspettiamo. Il fatto che possa essere inserita, integrata l'intelligenza a livello di PC, di fatto in tutte le cose, gli oggetti, standardizza molto. Perché oggi che cosa succede? Tutti gli apparecchi, magari parliamo dell'home automation più tradizionale, dialogano col loro linguaggio di quel marchio, di quella marca, e dopodiché c'è un gateway che trasferisce tutte queste informazioni su internet in modo tale che ci sia il controllo sul telefono. E questo vorrebbe dire che io ogni marca che ho, ogni oggetto che ho, dovrei avere poi un gateway. Se invece l'oggetto dialoga nativamente su internet e con un linguaggio standard, si può arrivare più facilmente ad avere un controllo, un aggregatore di controllo, e quindi il mio pannello domotico dove controllo tutta la casa, sia nella parte elettrica, sia nella parte di sorveglianza e antintrusione, sia nella parte di climatizzazione. E qui si innesta appunto anche la notizia dell'acquisizione di Nest da parte di Google, e sia nella parte di utilizzo degli utilizzatori, e quindi gli elettrodomestici, TV, lavatrice, lavastoviglie, eccetera eccetera, che sono un po' l'anello mancante in questo momento. Oggi l'home automation dove arriva? Arriva fino alla presa di corrente. Quindi noi possiamo controllare la presa di corrente, si sono visti anche a Las Vegas dei sistemi molto nuovi, molto smart, che non hanno bisogno di nessuna installazione, si attaccano alla presa di corrente, offrono un'altra presa che diventa una presa comandata, ma con lo smartphone per esempio. Già esistono anche sul mercato soluzioni di questo tipo, però possiamo dare solo l'on-off, cioè accendi o spegni quella presa di corrente, che per alcuni apparecchi può anche andare bene. Se devo controllare un ventilatore, gli do l'on-off, si accende e si spegne, ma se devo controllare qualcosa di più complicato come una lavastoviglie, sapere impostare un programma, sapere sul mio smartphone quant'è il livello del sale, per esempio, o se ho del detersivo ancora dentro oppure no. Ci vuole un protocollo di comunicazione digitale, non semplicemente dare alimentazione o levare l'alimentazione. Questo è il nuovo passo che stiamo aspettando di fare. Sì, noto che questa nuova frontiera richieda delle competenze, delle attenzioni che gli elettricisti, che sono tipicamente quelli a cui ci si rivolge per fare impianti di home automation, non hanno ancora. Dico questo perché appunto noto che c'è poca evoluzione verso il mondo internet di queste professionalità, e lo dico anche perché va detto che tutte queste cose in alcuni casi potranno essere fatte in autonomia in casa. Però mi sembra, anche girando per i padiglioni della fiera Las Vegas, che molto spesso, se si voglia fare dell'home automation piuttosto, non dico complessa, però insomma articolata e che coinvolga tutta la casa, insomma bisogna lavorare sull'impianto. L'impianto va sicuramente fatto con degli strumenti e delle logiche che sono anche tradizionali, dei fili vanno comunque passati, magari anche se cambiano magari il tipo di filo e la topologia dell'impianto, ma sicuramente va programmato un impianto di home automation. Ma la programmazione, se parliamo ai professionisti, non deve spaventare, non sai scrivere righe di codice, non è più scrivere righe di codice come si può fare per altri tipi di programmi, è tutta una programmazione a oggetti, quindi con degli strumenti molto grafici, molto visual, che sono facili da usare. Certo, bisogna cimentarsi. La competenza di utilizzo del PC e degli strumenti correlati è fondamentale. Un po' di conoscenza delle reti locali e di internet è fondamentale per questo tipo di professionalità, senza i quali si resta degli meri esecutori di progetti di terzi. Quindi prima l'elettricista, l'impiantista faceva tutto l'impianto, magari lo pensava anche e lo eseguiva, adesso rischia di non riuscire a pensarlo e di non riuscire a terminarlo, e di essere semplicemente una maestranza che sta in mezzo, coordinata da terzi. È una grande opportunità e anche una grande minaccia per chi non vuole cambiare un po' la sua professione. Esatto. Dunque, concludendo, che cosa hai visto di interessante a Las Vegas, non solo tu, insomma anche tutta la redazione di Day, a proposito di sistemi anche semplici, simpatici, utili per automatizzare qualche cosa che c'è? Tu prima avevi citato il caso delle chiavi e quindi della serratura, ad esempio Bluetooth. In questo caso si possono citare le impronte digitali, altri sistemi insomma che possono sostituire le chiavi. Che cos'altro citiamo? Ma citiamo un po' di robotica, ecco, quello sì, magari. Ormai i robot pulisci casa sono una certezza per molte case, nel senso che sono in molti già che li usano, migliora l'intelligenza, migliora un po' l'autonomia. Devo dire che si cominciano a vedere anche quelli specializzati, quindi il robot che pulisce i vetri in maniera sufficientemente autonoma e sicura, l'abbiamo visto abbastanza interessante, proprio perché rispetto a soluzioni che avevamo visto già da qualche tempo alle fiere, che richiedevano per esempio una contropiastra dall'altra parte del vetro e quindi non funzionavano, praticamente una contropiastra calamitata, quindi non funzionavano sui doppi vetri, sui vetri troppo spessi. Adesso invece ci sono delle sorte di cingoli di ventose che fanno sì che l'apparecchio, senza nessuna contropiastra dall'altra parte, vada avanti e indietro sul vetro senza cadere. Almeno noi non l'abbiamo visto cadere, quindi pensiamo che possano funzionare. Come cose più specializzate, c'è quello che pulisce la grondaia dalle foglie, magari un utilizzo molto americano, forse non so se per noi può essere applicabile, come quello che pulisce la griglia dopo il barbecue, no? Anche questo è un po' particolare. Quelli per piscina ormai ne conosciamo già tantissimi, e ce ne sono. Certo che le operazioni ripetitive sempre più vengono, come siamo passati, ma questo qui ormai moltissimi anni fa, da lavare i panni a mano a lavarli a macchina, altre operazioni stanno passando sotto il dominio delle macchine, per fortuna. L'unica che mi sembra veramente non aver mai visto, neanche Consumer Electronics Show di quest'anno, è la fase dello stiro. Quella resta comunque ancora manuale, perché evidentemente c'è troppa flessibilità a richiesta. Altre cose interessanti, ma comunque per certi versi già viste, ma che stanno prendendo forma. Cioè, avevamo visto per esempio le TV dietro gli specchi, cioè gli specchi, e poi compaiono le TV nascoste dagli specchi. Ovviamente una TV nascosta da uno specchio non si vede bene come una TV normale, perché comunque è un po' oscurata, anche se la luminosità viene... parlando dello specchio del bagno, per esempio, lo specchio del bagno, ma potrebbe essere anche uno specchio del salotto, si sono viste molte TV dietro gli specchi, ecco, non si vedono così bene, quindi l'applicazione televisiva lascia qualche dubbio. Qualcuno l'ha messa per esempio nei bagni, perché dice: mentre mi faccio la barba guardo il TG, poi il TG magari non c'è mai in quel momento, c'è qualche altra trasmissione. Quando si fa la barba bisogna ascoltare la radio. Questo è un ottimo consiglio e io faccio così. Però c'è chi vuole, per esempio. Però non è un'applicazione interessante. Quello che abbiamo visto invece è un'applicazione di display particolari, quindi molto stretti, molto alti, quindi che corrono lungo lo specchio, e quindi qui ci vuole appunto un display che sia pensato per questo scopo, che quindi corrono su tutto il fianco, perché anche specchiarsi sopra un'immagine non avrebbe senso, e danno una serie di informazioni in grafica che possono essere per esempio il meteo, l'andamento di borsa, le ultime notizie, eccetera eccetera, in maniera personalizzata, con dei widget che possono essere personalizzati. Ecco, questo ci sembra un'applicazione di una tecnologia che già esisteva, il display dietro lo specchio, ma è nettamente più credibile, per esempio. Allo stesso modo possiamo parlare di una serie di elettrodomestici comandati anche qui da applicazioni varie, però con i limiti di cui parlavamo prima. Scusa, a proposito di elettrodomestici, questi elettrodomestici comandati appunto da un'app, dal mio smartphone, cosa possono fare? Tutta la configurazione che si vuole, poi con modalità di interazione anche un po' innovative. Per esempio, oramai la tendenza sembra essere questa, almeno dei produttori coreani, quella di metterti in chat col tuo apparecchio, quindi fai domande in linguaggio naturale, come se mandassi un SMS, e lui ha una serie di risposte, dice a che punto sei, finisco tra 12 minuti. In modo tale che uno sa per esempio quando può cambiare il bucato, quando può andare a stenderlo, oppure ricordati di avvisarmi quando finisci, e questo manda un messaggio, ma non un messaggio nell'app, non solo nell'app proprietaria. Per esempio LG ha mostrato una soluzione che verrà implementata per avere un gateway su Line, quindi chi usa la chat con Line, ma potrebbe essere anche WhatsApp un futuro, per esempio, ha un utente fittizio che è la sua lavatrice, che chatta con lui e ti dice: ti mando un messaggio, guarda che ho finito, su WhatsApp o su Line. Cioè, questo ormai è il livello di interazione che già oggi si può fare, si potrebbe fare. Ovviamente basta che la lavatrice sia immersa in un campo Wi-Fi, quindi chi abbia accesso a una Wi-Fi e quindi accesso a internet può essere interrogata e può rispondere. La cosa risulta altresì cioè ancora più interessante se si pensa alle ormai fasce orarie per l'energia elettrica, quindi poter far partire, programmare, o anche per i più disordinati lanciare anche dal ristorante l'avvio della lavatrice che si è dimenticato di programmare nella fascia oraria più conveniente per il consumo elettrico, è già un'applicazione molto molto interessante. Già oggi si può programmare l'avvio di una qualsiasi lavatrice un po' evoluta. Però deve essere programmato, bisogna ricordarsi di farlo per l'ora giusta, eccetera, eccetera. Una cosa diversa è farlo da dovunque, anche quando ci si è magari dimenticati di programmare l'avvio. Bene Gianfranco, grazie per essere stato con noi, a presto e buon lavoro. Grazie mille e alla prossima occasione. Ed è tutto per questa puntata, come sempre grazie per la vostra attenzione, tutto per questo weekend di 2024, ci trovate sul nostro sito internet www.radio24.it. Come sempre vi ricordo e vi consiglio di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast. Io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana. 2024.